Notte Tempo 7 Minutes, la nostra pillola musicale alla scoperta delle novità e più interessanti del panorama di musica indipendente, che viaggia sulle onde sonore di Radio Libriamoci Web. Sono Livia Napolitano, vi do il benvenuto. La nostra pillola musicale questa sera ha il colore, il sapore e il suono della Giamaica, con la sua musica e il reggae che alla fine degli anni 60 da questa piccola isola è partita la conquista del mondo. Tanti artisti, anche piuttosto famosi, sono cimentati con questo genere musicale, il reggae, ma ciò che proponiamo noi esce fuori dagli schemi commerciali e quindi propone le realtà interessanti ed alternative come i Wojaija, un gruppo tutto italiano con il loro singolo Scegli. La nostra pillola musicale è stata ingurgitata, spero che vi sia piaciuta. Io vi do appuntamento su Radio Libriamoci Web ogni fine settimana, sabato e domenica, ore 18 ed ore 23, oppure in podcast collegandovi al link www.nottetempoblog.wordpress.com. Grazie per l'ascolto.